quotidiano cominciamo con darvi alcune informazioni, soprattutto benvenuto qui al Centro Trevi, sede dove occasionalmente la Biblioteca Provinciale organizza alcune iniziative, le consuete iniziative di incontro con l'autore e con l'autrice, che fino a poco tempo fa si svolgevano nella nostra sede in via Mendola 5, che esiste ancora, è sempre attiva, piena di libri e di altre attività. Vi invitiamo a venire a visitarci, solo che in attesa della realizzazione del polo bibliotecario abbiamo pensato di spostare queste iniziative, che di solito portano a un'affluenza maggiore, in locali un po' più aperti, un po' più accoglienti. Quindi in parte siamo qui al Centro Trevi e ringrazio l'Ufficio Cultura che lo mette a disposizione della biblioteca. Altre volte siamo al Teatro Cristallo e qualche volta anche al Liceo Classico in via Maggi, quindi una sede abbastanza vicina alla nostra. Saluto molto volentieri Peter Disertori, che è un amico della biblioteca provinciale, ecco, che non manca di venire a frequentare. Di coinvolgerci, di venire a presentare i suoi libri in biblioteca, ci fa sempre tanto piacere questo ritorno a Bolzano. E ricordiamo anche il suo papà, che era, appunto, si diceva prima, una figura imponente in tutti i sensi, nel senso che ha tanto contribuito anche alla nostra vitalità come cittadini di Bolzano. Ogni volta che anche lui veniva a presentare qualche libro in biblioteca da noi, la biblioteca si riempiva, ecco. C'erano tanti amici, tante persone che lo conoscevano, che tornavano volentieri, e per noi era sempre una bella occasione per vedere questo interesse anche nei confronti di quello che scriveva. La stessa cosa, ecco, si ripete con Peter Disertori. Questa volta il libro è un libro che riguarda, appunto, il passato millennio di mistificazione e inganni, al sottotitolo, ma il titolo principale è Religione e Conto. Abbiamo con noi questa sera anche Piero Dalle Molle, che è l'editore, e lo saluto e lo ringrazio per essere con noi. Ecco, dopo i rotoli di Qumran, Peter Disertori si è cimentato in altri libri, sempre scientificamente molto precisi, un percorso che vi invito a leggere, è molto interessante e che apre anche dei nuovi spirali, delle nuove considerazioni su quello che è il passato e che ci portiamo dietro anche nella nostra cultura. È una settimana particolare questa, perché oltre questa sera con Religioni Contro avremo poi giovedì al Teatro Cristallo invece un altro libro che possiamo sempre considerare di tema, non solo di considerazioni culturali ma anche teologiche in questo caso, Il Ragno Molesto di Fabio Bonanfè, con la partecipazione anche di Don Paolo Renner. La mia presentazione finisce qui, io vi ringrazio tantissimo di essere sempre numerosi, vi invito a tornare anche in biblioteca a trovarci, a venirci a trovare via Mendola 5. Ringrazio ancora i nostri ospiti di essere qui con noi e di aprirci un nuovo orizzonte di conoscenza. Grazie. Ma io dico due parole introduttive, perché poi è giusto che la parola sia data a Peter. Ringrazio prima di tutto i nostri ospiti e soprattutto i presenti, che vedo molto molto numerosi, e questo fa sicuramente un gran piacere. Questo incontro ha un precedente, appunto, di 3 anni fa giusti, perché era marzo del 2012, quando presentammo il precedente libro di Peter sui segreti di Qumran in via Mendola, tant'è vero che io sono arrivato con 5 minuti di ritardo, perché sono andato in via Mendola, non essendo io di Bolzano, ma arrivando apposta da Verona, tranquillo e beato sono andato in via Mendola. E per fortuna che ho incontrato una nostra ex stagista, Erika, che ringrazio, che mi ha condotto fin qua, perché sennò probabilmente io mi aggirerei ancora con lo zaino con 40 libri sulle spalle, che, se Dio vuole, depositato là. Per fortuna sono arrivato solo con ben 3 minuti di ritardo, dei quali comunque mi scuso. Ciò detto, perché abbiamo scelto di pubblicare questo nuovo volume di Peter? È il quarto volume che pubblichiamo, dico, della famiglia Disertori, perché abbiamo pubblicato è il terzo libro di Peter, il primo è il romanzo Dolomiti di Piombo, che abbiamo pubblicato nel lontano 2007, mi pare, e che concerne la narrativa, che sarebbe in teoria più il nostro settore, perché noi abbiamo una rivista che si chiama Inchiostro, che da 20 anni si occupa di narrativa, anzi con un pizzico di modestia dico che è la prima, la più diffusa, la più venduta rivista italiana di narrativa. Però siamo entrati in contatto con Peter e con il mondo di Peter, che è veramente un mondo a sé stante, tant'è vero che poi nel 2012 appunto abbiamo pubblicato il volume, di cui comunque ho portato alcune copie, sui segreti dei rotoli di Qumran. L'anno scorso, un anno e mezzo fa, abbiamo pubblicato un delizioso libro di memorie romanzate del padre di Peter, di Sandro Disertori, che purtroppo ci ha lasciati 6 mesi fa, però alla veneranda età di 96 anni, di una vita vissuta intensamente e anche molto proficuamente, potrei dire. E adesso arriviamo a questo quarto libro della genia Disertori, che è appunto Religioni contro. Già dal titolo si capisce che è un libro scomodo, difficile. Abbiamo fatto la prima presentazione un paio di mesi fa e poi una successiva a Rovereto un mese fa, all'indomani dei fatti di Parigi di Charlie Hebdo, per cui c'era un'atmosfera particolare, perché presentare un libro che si chiama Religioni contro, millenni di mistificazioni e di inganni, ovvero sia come le religioni, e sottolineo qualsiasi religione, per millenni ha cercato di riscrivere la storia a uso e consumo delle proprie finalità, beh, all'indomani di quello che era successo a Parigi era particolarmente significativo e anche difficile. Perché comunque, con questo passo la parola a Peter, anche nell'anno Domini 2015 scrivere e pubblicare un libro del genere non è assolutamente facile. Prova ne sia che io ho chiesto alla Biblioteca Civica di Verona, che Verona è un'istituzione, se potevamo presentarlo anche lì, e il direttore della biblioteca, che comunque è un amico, un caro amico, mi ha fatto presente che con un titolo del genere, insomma, si rischiava di urtare certe sensibilità, che alcune suscettibilità potevano essere, per cui mi ha fatto capire che era meglio quantomeno aspettare, vediamo, tempi migliori che non si sa quali possono essere. Questo è un libro del quale noi comunque siamo molto soddisfatti, anche se mi posso permettere dal punto di vista tecnico, perché Peter lo sa, prima di arrivare alla pubblicazione ci abbiamo lavorato sopra quasi un anno, alla fine abbiamo contate 23 giri di bozze, nel senso che non si sono succedute 23 persone, alcune come la presidente Erika se ne è sorbita un paio, io me ne sono sorbite 3 o 4, ma alla fine siamo arrivati a quello che lo chiamo in termine commerciale, con un termine bruttissimo, un prodotto del quale siamo estremamente soddisfatti per i contenuti, e di questo dobbiamo ringraziare Peter, ma anche per come il libro dal punto di vista tecnico è riuscito, perché anche come cura dei particolari pensiamo di essere riusciti a confezionare un lavoro fatto come si deve, se mi permettete una punta di modestia. Con questo chiedo di prendere la parola a Peter e di raccontarci più nel dettaglio il contenuto del libro. Beh, innanzitutto un grazie anche da parte mia all'organizzazione, al pubblico, spero che mi sentiate, e mi accingo a parlare di questo libro con una certa emozione dovuta dal fatto che, venendo qua, mi sono accorto che in linea d'aria a circa 100 metri c'era il mio vecchio liceo, e come un mattone mi sono venuti in mente i vari due meno meno che ricevevo in greco e latino dall'allora professor Moggio, forse qualcuno se lo ricorda, E adesso propormi qua con delle, come studioso mi viene un po' da ridere, però ce l'ho fatta tutta, cioè io ce l'ho messa tutta. Religioni contro, titolo è pesante, ma nasce da una riflessione molto semplice, una riflessione che mi è venuta a Gerusalemme quando ho visitato la cosiddetta città vecchia. Mi sono reso conto che le religioni in realtà dividono, sono i grandi ideali che uniscono. A Gerusalemme ho visto che ognuno ha la sua verità e non accetta la verità degli altri, quindi invece di essere Gerusalemme, la città della pace, è una città in cui sono tangibili, cioè sono veramente all'ordine del giorno delle tensioni tra i vari fedeli. Nel mio libro però io non ho voluto assolutamente parlare di fede, perché non è il mio tema, non è questo, ma leggendo i giornali, cioè soprattutto diventando sempre più biondi, come succede a me, mi sono posto parecchi quesiti: perché siamo qua, cosa ci hanno raccontato. E girando per il mondo e leggendo e ricordando quello che invece è stato insegnato a scuola piuttosto che non università o quant'altro, o anche l'educazione religiosa, mi sono accorto che ci sono parecchie discrepanze, parecchie cose che non collimano, soprattutto perché negli ultimi decenni del secolo scorso, ma anche all'inizio di questo millennio, sono stati trovati dei reperti che hanno rivoluzionato completamente tutto quello che fino adesso ci avevano insegnato, cioè andavano giù proprio come lapidari, cioè età del bronzo, neolitico, mesolitico, cioè proprio a scadenze, tutto sembrava tutto scritto, tutto matematico. Ci si rende conto invece che le cose non sono così. Allora la domanda prima, ed è questo il tema, il filo conduttore se vogliamo del libro: le religioni che funzione hanno avuto in questa informazione o disinformazione? Se noi pensiamo che la Bibbia è stata per secoli considerata quasi l'attrice di verità anche storiche, ancora adesso in certi paesi, tanto per non far nome, negli Stati Uniti si giura sulla Bibbia invece che sulla Costituzione, su cose più certe, e quindi ci sono ancora milioni, miliardi di persone che credono che quello che è scritto nella Bibbia sia anche una verità storica. Ed è questa la difficoltà. La difficoltà è da dire scindere la fede dalla ricerca, perché è chiaro che se io devo analizzare dei testi antichi, dei reperti, devo dimenticarmi della fede, cioè devo andare giù da di fuori, come se fosse un alieno che si mette a studiare dei reperti. Quindi questo è già il primo contrasto che si trova. Ma tornando un attimo a quello che ho detto, sono stati trovati in giro per il mondo, proprio agli antipodi, dei reperti, che non sono le solite piramidi che comunque egizie, che comunque sono un mistero, ma in Turchia, nella Turchia meridionale, a Göbekli Tepe, sono stati trovati dei monoliti in granito. Voi sapete che per lavorare il granito ci vogliono punte diamantate o laser, quindi siamo quasi nell'età della pietra. Queste enormi strutture, tra l'altro pesantissime, sono state trovate da per caso. Per fortuna gli scavi vengono fatti da un'equipe tedesca, la quale sta andando avanti con serietà, quindi un passo alla volta, un po' al contrario di quello che è successo a Qumran con i rotoli, purtroppo. E quello che sconvolge, li hanno datati, quindi abbiamo scoperto che risalgono al 9000 a.C. quindi 9000 a.C. c'erano delle strutture urbane, dei megaliti, delle cose molto più complesse. Ufficialmente siamo nel mesolitico, quindi in teoria è una cosa sbagliata, non dovrebbe esserci. Un'altra ancora più sconvolgente, che è il titolo che è la fotografia del titolo del libro, della copertina del libro, sono delle vestigia megalitiche trovate a 4000 metri di altezza, a circa 100 km dalla Paz in Bolivia, sulle Ande, E anche lì insomma, sembrano dei Lego di granito e di diorite, cioè quindi un materiale assolutamente difficile da lavorare, squadrate perfettamente, in maniera che non si riesce a spiegare. Tra l'altro la sua, quell'altitudine, non c'è legno per farli rotolare, quindi tutte le teorie, le ipotesi fatte dagli studiosi sono cadute nel vuoto, cioè si può solo fantasticare, non ci sono risposte. Allora la mia domanda è cominciata, cioè comincio, quindi vado molto indietro, dico: quanti di questi reperti o di questi quesiti esistono nel mondo? E lì cominciamo, l'elenco è infinito, non sono io che ho citato questi due più macroscopici, ma c'è la Stonehenge in Inghilterra, ci sono i megaliti di Malta, c'è Baalbek, ci sono un sacco di vestigia inspiegabili. Anche le piramidi, le stesse piramidi, le tre grosse piramidi di Giza, se smontassero la grande piramide con i cubi, riusciremmo a fare una fila da New York a San Francisco, cioè di 6.000 chilometri. Io non credo, francamente, che sia una tomba, può darsi che l'ha fatta da un padre, cioè è tutto tirato per i capelli. Quindi la storiografia ufficiale non ha dato. Sono delle ipotesi, ma ci sono delle ipotesi anche estremamente divertenti e suggestive, ma sono tutte ipotesi, verità non ci sono. L'editore, l'amico Dalle Molle, prima ha detto che ci sono state 23 riletture. Le 23 riletture sono anche dovute dal fatto che tutto quello che ho scritto è documentato, cioè tutte le ipotesi strampalate o le cose campate per aria io non le ho scritte, perché restano delle cose. In realtà io ho cercato di fare una specie di elenco di tutti questi messaggi che ci sono, dando, incuriosendo, spero, il lettore, il quale poi da queste informazioni potrà accedere a della letteratura più specifica e più seria, una specie di vademecum di quello che c'è in giro nel mondo. Ma perché? E torniamo sulla domanda di prima, le religioni. Perché indubbiamente un testo come la Bibbia certe verità le ha riportate, non è che non è. Allora l'abilità o la capacità dello studioso, secondo me, è quella di leggere anche tra le righe, di capire cosa effettivamente anche dei testi cosiddetti sacri hanno riportato per poter rileggere la storia. La Bibbia con molta elasticità spazia, c'è gente che ha 1000 anni, 800 anni, gente che vola, che parlano con Dio, c'è tutta una serie di roba che legge la Bibbia, è anche abbastanza divertente perché ci sono delle cose straordinarie che mai mi sarei pensato fossero scritte, ma su quello non voglio infierire perché non è quello il tema. I messaggi invece sono abbastanza inquietanti. Primo, la prima constatazione è che la Bibbia, tutto sommato, non esiste. Non esiste perché? Perché esistono le tavolette d'argilla sumere, esistono i geroglifici dipinti sulle piramidi, ma la Bibbia, il negativo della Bibbia, la Bibbia originale, non esiste. Esistono traduzioni, trascrizioni, non si sa fatte da chi, si ipotizza, non si sa neanche in che lingua sia stata messa per iscritto la prima volta. Alcuni sostengono che la Torah sia stata messa per iscritto durante la cattività babilonese, però gli ebrei scrivevano senza staccare le parole, senza mettere le vocali, quindi anche lì l'interpretazione è piuttosto elastica, cioè non è che sia. Altri dicono no, l'hanno tradotta in greco nella Koine, 70 saggi per la biblioteca d'Alessandria. Fatto sta che se io nasco a Bolzano ho 42 libri nella mia Bibbia, se nasco a Gerusalemme ne ho 36, se nasco in Etiopia ne ho 38. Quindi la Bibbia, sostanzialmente parlo dell'Antico Testamento, a seconda delle confessioni ha delle interpretazioni, la più macroscopica è quella dei testimoni di Geova, addirittura, i quali hanno tradotto in italiano la Bibbia dall'inglese in italiano, quindi il Logos. Chi ha studiato il greco si ricorda che nel vocabolario di Logos c'è una pagina di traduzione di Logos, è stato tradotto in verbum, da lì in inglese in word, dall'inglese all'italiano è tornato, e una volta vicino a Dio c'era la parola. Quindi vi potete immaginare quanti di questi errori o male interpretazioni o equivoci ci siano stati nelle varie traduzioni e nelle trascrizioni. Se io prendo l'Iliade non è un libro sacro, quindi io presumo che sia abbastanza fedele all'originale, perché nessuno aveva interesse. Al massimo, infatti, si vede anche nell'Iliade che aggiungevano dei guerrieri quando andavano su un'isola di Aedi a cantare, e i vari eroi aggiungevano un eroe dell'isola per accattivarsi il signor Ottima, appunto. Ma l'Odissea e l'Iliade sono abbastanza fedeli all'Iliade. Io ho grossi dubbi che sia, cioè, ripeto, non esiste, però ci dà dei messaggi. Io adesso, quando sono stato al British Museum, ho trovato una tavoletta sumera in cui praticamente è disegnata, quindi non ci sono problemi di traduzione, la tentazione di Eva. Si vedono Adamo ed Eva con l'albero e il serpente. A Berlino, non mi ricordo più quale museo, quello del Medio Oriente, adesso, c'è una tavoletta in cui è rappresentato il sistema solare con in mezzo il Sole, anche se i pianeti sono messi un po' così. Però in realtà, quindi 5-6 mila anni fa, i sumeri sapevano che i pianeti girano intorno al Sole. Galileo ha rischiato il rogo 200-300 anni fa perché sosteneva la stessa teoria. Quindi la Bibbia sicuramente ha avuto delle forti influenze sumere. Infatti Abramo veniva da Ur dei Caldei, che era in Mesopotamia. E anche lì la Bibbia è strana, perché parla tutta la Genesi, parla di questo Abramo che arriva, questo legame con l'Egitto, e arriviamo all'Egitto, Giuseppe avanti e indietro, poi si interrompe e con questo la Genesi, poi passano 200-300 anni e comincia con l'Esodo. E lì c'è Mosè in Egitto e improvvisamente nascono gli ebrei. Fino allora non esistevano gli ebrei, perché erano dei sumeri che erano andati prima in terra santa, poi sono andati in Egitto. Poi a un certo momento ci sono questi ebrei schiavi, non si sa perché, per come, che devono scappare. Poi scappano nel deserto con tanto di quell'oro, d'accordo, erano ebrei, però hanno fatto il vitello d'oro, ce ne hanno fatte 40 anni che giravano. C'è tutte delle storie abbastanza strane, con questo mare che si apre tutto quanto, malgrado questo si dimenticano di questo Dio e fanno un vitello. Tutte delle incongruenze, ma al di là di queste cose, la Bibbia è piena. Cos'è che è interessante? È interessante capire che il concetto di monoteismo probabilmente è egizio. E Sigmund Freud, che non aveva letto e non sapeva dei rotoli di Kuhnmann, già all'inizio del Novecento sosteneva che probabilmente Mosè era Akhenaton, il faraone maledetto, il faraone che ha la paternità del monoteismo. Quindi c'è questo forte, quindi, l'attaccamento con l'Egitto. Contemporaneamente, su geroglifici del Medio Regno, del Nuovo Regno, quando si parla del Medio Regno si parla degli Ixos. Gli Ixos, questi re pastori, queste tribù asiatiche nomadi, che per 200-300 anni avevano dominato il Basso Egitto. Quindi ecco che ci sono questi collegamenti con la Bibbia, di chi potrebbero essere questi ebrei, queste tribù nomadi. Poi scritta e dopo è stata rielaborata. Questi chiamiamoli così, inquinamenti o queste cose da culture limitrofe, la Bibbia è piena. Il più affascinante di tutto, quello che più mi ha colpito, ed è stato scoperto alla fine dell'Ottocento, quindi in Occidente questo reperto è noto da 150 anni ormai, è stato scoperto nel 1870, una roba così, 130-140 anni, ed è il rotolo di Ciro. Il rotolo di Ciro è una specie di palla di rugby di argilla, in cui Ciro, nel VI secolo a.C., è stato trovato a Baghdad vicino insieme a delle tavolette sumere dagli inglesi, ed è al British Museum. Ciro il Grande, e questa è la cosa straordinaria, questo rotolo di Ciro secondo me dovrebbe essere messo all'ONU, proclama libertà di religione nel suo impero. È un documento straordinario di una modernità, sembra scritto ieri, cioè una cosa di una modernità. E poi cito l'orientale Marduk, che era il dio babilonese, prende Ciro per mano, libera questo, dai la libertà, e infarcito sempre alla maniera orientale, però è di una modernità totale. Le stesse parole, invece che Marduk, Yahweh, sono, le ritroviamo nella Bibbia. La Bibbia è stata scritta circa 100 anni dopo, quindi anche qui è la dimostrazione che la Bibbia sostanzialmente ha fatto sua una serie di tradizioni che giravano nel Medio Oriente. Un'altra, io qua fermo perché poi non voglio raccontarvi il libro, ma sono tutti degli elementi che possono rendere interessante questa ricerca, perché si spazia, abbiamo visto, dalle Americhe, dall'Asia, dall'Africa, per arrivare poi sempre nel centro, che è l'ombelico del mondo, i quali sono stati gli unici che hanno messo, se vogliamo, per iscritto, codificato tutte queste leggende. Ma la leggenda più inquietante, più antica, se vogliamo, è quella legata ai solstizi, è la leggenda della morte, della risurrezione del sole, del dio sole, che poi ritroviamo in Bacco, ritroviamo in parecchie altre leggende. In altre parole, verso il 20, 17, 18 di dicembre, il sole comincia sempre più a morire, ad andare a declinare sempre più a sud. Il 21 dicembre scompare, per 3 giorni muore, non so, poi finalmente il 25 comincia pian pianotto a risorgere. Il 25 dicembre, tra l'altro, per la cintura di Orione, se si tira una parallela su Sirio, si arriva sullo zenith nel punto esatto in cui il sole, cioè il dio morto, risorge. Allora questo mito è stato poi preso da Mitra, da Bacco, da Iside, così, da tutte quelle gente lì, e anche i film dei cristiani. Quindi anche i miti che giravano da millenni nell'Oriente, a un certo momento sono stati fermati, sono stati bloccati e sono diventati poi religione. E questo è un esempio, ma ce ne sono tantissimi di questi. La cosa però dove invece a me personalmente ha più affascinato è che nello stesso periodo in cui queste leggende venivano in forma abbastanza esoterica, se vogliamo anche incomprensibile, venivano codificate, diventavano la base delle religioni, nella vicina, in linea d'aria, poche centinaia, neanche 1000 chilometri di distanza, nel mondo greco esplodeva un sapere che ancora oggi è moderno. Non parlo solo della Grecia classica di Platone e di Pitagora, che hanno dato la base di quello che è la filosofia, di quello che è tutta la nostra cultura occidentale. Però anche lì bisogna fare un'osservazione. L'alfabeto greco comincia con un alfa, beta. Quello ebraico e quello arabo si chiamano alif, bet. Quindi anche questo dimostra che non erano così distanti come si crede, non è che fossero, c'era di mezzo forse il mondo minore, sono tutte delle cose che non sappiamo. Noi abbiamo sempre i risultati, però ci mancano tutti i nessi. La Magna Grecia a un certo momento è stata, è implosa, ma è implosa più che altro, è imploso il mondo alessandrino. A un certo momento, nel terzo secolo avanti Cristo, è esploso, c'è cioè una specie di momento topico della nostra cultura, è il mondo alessandrino, la biblioteca di Alessandria, tutte quelle menti che erano, che si trovavano, lavoravano ad Alessandria, vado da Archimede, Euclide, il libro di Euclide, gli elementi sono bestseller ancora adesso a scuola si insegnano gli elementi di Euclide. Tra l'altro gli elementi di Euclide sono stati tradotti, sono stati persi, sono stati tradotti dall'arabo in latino da un monaco inglese, certo Adelardo dell'Abate. Quindi anche lì ha fatto dei giri allucinanti. Dicono, noi crediamo che lo zero sia un'invenzione araba, non è vero. Lo zero esisteva prima, i greci addirittura lo scrivevano con la omicron, come lo scriviamo noi, perché vuol dire udente, vuol dire niente. È andato perso. Come si fa a pensare che c'è il pi greco senza conoscere lo zero? O fare calcoli trigonometrici come faceva Aristarco da Samo, che ha calcolato la distanza della Terra della Luna senza conoscere lo zero. Lo zero è stato dimenticato, come è stato dimenticato tutta una serie di notizie. Con l'avvento dei romani, la distruzione di Cartagine, probabilmente si è rotto quel filo diretto che c'era tra il mondo fenicio, che era coltissimo, pieno di notizie comunque geografiche e anche empiriche, il mondo della Magna Grecia. So che i romani non l'hanno fatto apposta, però Archimede è stato alzato dai romani e lui aveva i famosi specchi, quindi c'era un know-how, come si amerebbe dire adesso, molto superiore di quanto non crediamo. Poi è imploso. Io non do la colpa alle religioni, perché tutti dicono si sono stati cristiani, poi l'Islam, certo hanno contribuito, ma una delle domande chiave che io mi pongo è anche se lo sviluppo è uno sviluppo armonico, cioè lo sviluppo, oppure se è fatto a macchia di leopardo. Non lo so, noi comunque abbiamo un esempio che dovrebbe farci meditare, e sono proprio le tre piramidi, sia egizie che quelle mesoamericane di Teotihuacan. Se si prendesse anche su Google Earth e si andasse a posizionarsi sulle tre piramidi egiziane, si mettesse una carta di linea, tre punti, poi si trasportano, si mettono su quelle mesoamericane di Teotihuacan, ci stanno. Cioè sono, solo che quelle di Teotihuacan sono più basse, però nelle piramidi c'è dentro una formula che dimostra che conoscevano lo zero. Cioè se io moltiplico l'altezza della piramide di Giza per due volte pi greco, ho il perimetro. Se io moltiplico la piramide del Sole di Teotihuacan per quattro volte pi greco, perché è alta la metà, ho sempre il perimetro. Quindi sia i costruttori messicani che gli egiziani conoscevano il pi greco, quindi conoscevano lo zero, conoscevano la matematica. Questi sono solo degli esempi, uno più, se vogliamo, affascinante è quello sempre che viene dal mondo alessandrino, è il discorso dell'America. Affascina, è molto attuale parlare di America, che sono stati i vichinghi, no? Cioè, indubbiamente, però addirittura ci sono delle teorie che vogliono che i templari siano stati in America e che Colombo usasse delle mappe templari per aver raggiunto i Caraibi. E lì la ricerca che ho fatto è abbastanza interessante, mi ha dato un'enorme mano Lucio Russo, che è uno dei più grossi esperti in Italia del mondo ellenistico, il quale ha fatto delle ricerche su Eratostene. Eratostene era il bibliotecario di Alessandria d'Egitto. Eratostene aveva calcolato la circonferenza della Terra, aveva fatto un mappamondo, parlo di 300 anni prima di Cristo, e aveva messo i meridiani e le parallele, quindi avevano un globo terracco, e lui aveva posizionato con tanto di coordinate delle isole che erano chiamate, note come isole fortunate, lussureggianti, verdi e quant'altro. Mi interrompo un attimo e dopo questa premessa per fare un passo indietro e dire che ci sono degli studiosi, dei pseudostudiosi, c'è una corrente di pensiero, diciamo così più generosamente, che sostiene che i fenici siano arrivati in America. Se sono arrivati in America, bravi, però non l'hanno detto, cioè non hanno lasciato tracce. Che Annone, navigatore di fenicio nel VI secolo avanti Cristo, avesse costeggiato l'Africa e scrive lui, e a un certo momento avevo il sole alle mie spalle, e quindi tutti dicevano chissà cosa ha bevuto, come fa avere il sole alle sue spalle, dimostra che in realtà aveva passato l'equatore. Lo stesso vale per un certo Pitea, un greco, che è riuscito a forzare il blocco delle colonne d'Ercole nel III secolo a.C. ed è stato il primo a circumnavigare le isole britanniche, e lo scrive in un libro andato perso che si chiama Per Oceanon, e lui a un certo momento scrive che è arrivato in un punto chiamata la mitica Thule, in cui il ghiaccio, cioè non c'era notte e il ghiaccio si fondeva col mare. Anche lì gli è andato dell'ubriacone, del fantasioso, in realtà era arrivato al circolo polare. Fatta questa premessa, sempre correnti di pensiero, lo stengono, dice sì, l'America, quindi se sono andati su in Groenlandia, se hanno costeggiato l'Africa, è anche plausibile che siano arrivati in America. E a questo proposito ci sono due cose, anzi se vogliamo tre, ma la terza sono due ananas, uno disegnato a Pompei e l'altro in un mosaico alle Terme di Roma, quindi in epoca proprio a cavallo dell'anno zero. Quindi i romani a un certo punto avevano disegnato degli ananas, ananas sono frutti americani, ma è poco, cioè manca la prova archeologica. La terza si ricollega invece a un argomento molto più inquietante, se vogliamo, e torniamo ai templari. Prima di chiudere il discorso di Eratostene vale la pena fare questa digressione, questo volo pindarico all'indietro. Quando io l'avevo scritto nel mio libro sui rotoli di Qumran, gli Esseni avevano, quando era chiaro che i romani avrebbero distrutto Gerusalemme, quando hanno nascosto la loro biblioteca. La loro biblioteca l'hanno nascosta in grotte, probabilmente anche dall'altra parte del Mar Nero in Giordania. Non del Mar Nero. Del Mar Morto, in Giordania. E sicuramente, dato che dopo, secondo la tradizione cristiana, c'è stata l'ultima cena, cioè vicino al Monte Sion, la cittadella di David, c'era una sinagoga essena che abbiano nascosto anche la loro biblioteca sotto la spianata del Tempio. E la spianata del Tempio, che io adesso qua non vorrei fare sempre vedere se riesco. No, queste qui sono. Ecco, questo qua, scusate, faccio un passo indietro. Qua si vede il Sole in mezzo ai pianeti. Chiaro, si vede benissimo che non sono riportati in maniera. Però è emblematico. Questa tavoletta ha 5.000 anni. Qui qua è l'albero con i frutti e qua sono i serpenti. Questo è anche inquietante. E questo è il famoso rotolo di Ciro di cui ho parlato prima. Ecco, forse così mi aiuto un attimo, anche perché così si sa di cosa adesso dovrei trovare, ma come sempre non trovo niente. Vabbè, la interrompo intanto che lei cerca, anche perché se no io come editore non posso permettere che Peter racconti tutto quanto il libro, se no nessuno poi lo compra, caro, perché lui quando parte il quarto non bisogna fermarlo ogni tanto, perché se no. Ma a parte le battute, ritornando al discorso del lavoro che abbiamo fatto in equipe su questo libro, la richiesta che noi abbiamo fatto come casa editrice a Peter è stata appunto quella di inserire nel libro solo prove assolutamente certe e documentate, e questo è quello che è stato fatto, per cui anche dove c'erano delle verosimiglianze, delle alte probabilità, questo è stato espunto, in modo che così nel libro ci sia solo ciò che è scientificamente dimostrato, diciamo ciò che è acquisito dal patrimonio degli studiosi, dal patrimonio della scienza. E questo è il valore aggiunto del libro. Io amo definirlo una sorta di campo base, cioè non è un libro che pretende di dare delle risposte e tantomeno di fornire degli elementi definitivi, ultimi. Semplicemente è un punto di partenza perché poi i lettori possano a loro volta proseguire nella direzione che meglio credono, ovvero sia approfondire un argomento piuttosto che un altro. L'approccio, ripeto, è quello dello studioso. Questo, nonostante il titolo, è un libro soprattutto di storia e di archeologia, però è anche un libro nel quale si sollevano dubbi, ovvero sia se tutto quello che è la cosiddetta storiografia ufficiale corrisponda a verità, o viceversa, in alcuni punti che Peter poi illustra dettagliatamente, ci sia stato qualche indebita ingerenza, come si diceva una ventina d'anni fa, anzi anche una quarantina d'anni fa, nei tempi della guerra fredda, ci sia stata qualche indebita ingerenza, ovvero qualche intervento a gamba tesa da parte di qualche religione più o meno interessata a tirare l'acqua al proprio mulino. Perciò io amo questa definizione. Questo è un libro che rappresenta un punto di partenza, un campo base, e poi se uno vuole andrà oltre, anche perché Peter ha l'approccio dello studioso, di fatto è uno studioso, ma non ha la competenza singola sui singoli argomenti, non è per esempio un teologo, nonostante gli studi dei gesuiti. Per cui questo, a mio modesto parere, e questo è anche il motivo che poi, al di là dell'amicizia ormai subentrata con Peter e con tutta la famiglia, ma che come editore mi ha portato a decidere di pubblicare questo libro. Non è un libro che ha una verità assoluta e la vuole proporre o propinare. Ha una serie di analisi, sottopone dei dubbi ai lettori e sulla base di questi dubbi procede poi per argomentare quali possono essere le varie risposte che questi dubbi possono o non possono avere. Grazie, ha fatto prendere anche fiato che non nuoce. Io adesso sono riuscito a trovare un attimo dove mi ero fermato. Quella che vedete qua è la moschea di Al-Aqsa, che è stata per 100 anni la sede dei Templari. Quindi i Templari hanno avuto la spianata del Tempio di Gerusalemme. Di Gerusalemme, che si vede, questo è il muro del pianto, il famoso Kotel. Questa è la ricostruzione, queste sono tutte le diapositive. Ecco, sotto la spianata del Tempio ci sono questi cunicoli che noi abbiamo avuto il permesso di visitare. Le foto che ho fatto le ho fatte io, che vanno praticamente dentro per centinaia di metri sotto la spianata del Tempio, sono antichissime, e si presume che, come dicevo prima, gli Esseni possano avere nascosto la loro biblioteca in questi cunicoli. Come vedete qua, il palazzo, questo qua, dove c'era la moschea, cioè era di Al-Aqsa, adesso c'era il Tempio di Salomone, il palazzo dei Templari, per 100 anni. Quindi alcuni correnti di pensiero di studiosi sostengono che i Templari siano in questa maniera, è stato l'unico momento in cui la spianata del Tempio era aperta, perché da quando è stata buttata giù il Tempio dai Romani, secondo Tempio quello di Erode, fino ad oggi sostanzialmente la spianata del Tempio è sempre stata in mano, i primi 300 anni in mano ai bizantini, se vogliamo, i bizantini della spianata del Tempio non erano interessati. Da qua è nato l'Islam, fino ad oggi, a parte questi 100 anni o meno, poco meno di 100 anni, sono sempre stati in mano araba. E quindi, tornando a questa ipotesi, che abbiano trovato la biblioteca Essena. La biblioteca Essena non era soltanto una biblioteca di libri religiosi, di barabbe, ma sappiamo che gli Esseni erano libri di matematica, erano terapeuti, erano astronomi, e quindi che possano avere dato delle dritte ai Templari anche su quello che possono essere certe conoscenze matematiche, astronomiche e quant'altro, quindi che la Terra fosse tonda. E questo, la prima dimostrazione l'abbiamo con tutte le più di centinaia di cattedrali gotiche che i Templari, sotto l'egida dei Templari, nel giro di pochi decenni sono esplose in Europa. Poi dal fatto che quando i Templari sono stati distrutti, loro sono scappati da un porto atlantico, dal porto della Rochelle, e lì vengono le varie teorie dove sono scappati, Scozia, quant'altro, e alcuni sostengono che addirittura siano arrivati in America. E adesso torno ad Eratostene e a quello che avevo detto prima. Cioè, Eratostene, quando aveva disegnato il mappamondo, parlava di queste isole fortunate. Lucio Russo, questo grande studioso dell'ellenismo, si è accorto che Tolomeo, riportando i dati di Eratostene, aveva fatto un banalissimo errore di moltiplicazione. Quindi aveva accorciato, rimpicciolito i meridiani, e le isole fortunate si sono trovate sovrapposte più o meno dove sono le Canarie. Quindi per un paio di millenni tutti pensavano che Eratostene parlasse di isole che erano ben note. Rifatti i conti, rifatti i calcoli, si è accorto che si erano sovrapposte e conoscevano le Antille. Lo stesso vale per la famosa Thule, che a causa di questo errore di Tolomeo pensavano fossero le Shetland piuttosto che no, allora invece con i nuovi conti hanno visto che comunque erano arrivati i greci in Groenlandia. Ecco, questi sono degli esempi su come certe informazioni, tante informazioni, vengono dimenticate. Colpa guerre, colpa terremoti, colpe anche come i Maya sono scomparsi, non si sa perché, certe volte c'è anche un'implosione, c'è anche un decadimento fisiologico, scompare una civiltà. Certo è che quello che ci hanno raccontato, o quello che vogliono raccontare, non è tutto il movimento. Cioè quello che dico io adesso magari sembra moderno, tra 10 anni è superato. Noi mancano tante risposte. Quella più affascinante dal punto di vista, anche qua, soltanto fatta da geologhi, sono le rivelazioni fatte sul Mar Nero. Il Mar Nero era un lago, era un mare d'acqua dolce, infatti si chiama Nero perché non si sa bene cosa c'è giù, va giù 2-3 km tra l'altro, è molto fondo. A un certo momento, verso il 6000 a.C., è diventato, cioè dai Dardanelli, è entrata dell'acqua salmastra in seguito a chissà quale cataclisma, e tutto questo è stato dimostrato da Carotaggi. Ecco che quindi una notizia fatta così da geologi che hanno fatto queste cose, poi la troviamo diluvio, tutto scritto in forma allegorica, in forma, ecco che diventa interessante anche la rilettura o la lettura intelligente dei testi sacri. Sono fondamentali, perché tutto sommato sono quelli gli unici che parlano di queste cose. La vera cultura è implosa, è andata persa. Cioè la distruzione della biblioteca di Alessandria, anche lì ad opera dei romani, sicuramente Giulio Cesare non voleva bruciarla, però sappiamo la soldataglia, abbiamo visto cosa fanno gli olandesi a Roma, non possiamo dare colpa all'Olanda, no? Si paga una fontana, la soldataglia quando è scatenata è bruciata la biblioteca di Alessandria. Quindi quello che abbiamo, anche lì è andato perso, ma nel 48 a.C. la biblioteca di Alessandria o il sapere di Alessandria era ancora così vivace come era 200 anni prima, quando venivano fatto il faro, quando venivano fatti appunto Eratostene, faceva dei conti assolutamente moderni. Sono tutte cose, tutte domande alle quali non ci sono risposte. L'unica alternativa, l'unica via, secondo me, ma è una via personale, una via che ho deciso di seguire, è quello di scavare, cioè di non accettare, per non dare per scontato che quello che viene raccontato ufficialmente sia sempre vero, di cercare di mettere a posto questo puzzle. Vi assicuro, alla mia età mi sto divertendo come un matto, perché mi sono accorto che ho fatto solo un piccolissimo passo, perché c'è ancora talmente tanto da rivedere, da fare, che è un'avventura che è veramente entusiasmante. Un'ultima battuta sul discorso dei scrivere millenni di inganni e quant'altro. Le religioni, non voglio fare polemiche, non è mia intenzione, non voglio parlare di fede, per me vanno bene tutte, non è questo, però se io come religione racconto delle balle, e queste balle, queste invenzioni, queste robe qua, le cerco di difendere la spada tratta, attenzione, può succedere che gente creda veramente che ci siano le 70 vergini o le 72 vergini e ammazza per quello, quindi attenzione, questo è il pericolo. Noi non dobbiamo mai perdere, a mio avviso, di vista uno dei doni che Dio ha messo, che esiste, ci abbia fatto, che è l'intelligenza, ma dobbiamo usarla. E il non usarla, di accettare quello sempre la scatola chiusa, quello che ci viene rovinato da altri, che sicuramente hanno delle grandi verità, ma non sempre sono verità, è un grande limite. Quindi il mio invito indiretto è quello: non dimentichiamoci che abbiamo un capitale, che è la nostra testa, facciamola usare, usiamola, andiamo a vedere, leggiamo tra le righe, non accettiamo sempre la scatola chiusa quello che ci viene propinato. E questo mi sembra una cosa che a molte persone può dare fastidio, ma io penso che sia la cosa tutto sommato più naturale. Io spero di non avervi tediato troppo, se ci sono delle domande o quant'altro, io sono a vostra disposizione e vi ringrazio infinitamente per l'attenzione. Io prima di rispondere intanto, mentre qualcuno magari fa domande, vi faccio vedere alcune immagini che mentre parlo, è difficile parlare, usare purtroppo, non ho quattro mani, ci sono alcune diapositive che mi piacerebbe che vediate, in cui praticamente si vede che quello che ho detto, cioè che abbiate un'idea visiva di quanto ho detto. Intanto vi ringrazio infinitamente per l'attenzione. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, non so se si senta da lì o se è meglio che forse venga qua, non lo so. Io intanto mi reco in zona libri se qualcuno è interessato. Direi che forse conviene che forse venire qui, oppure non so, passare il microfono, non so come funziona il vicino. Io aggiungerei, intanto la ringrazio del suo intervento e aggiungerei alle sue domande un'altra domanda che probabilmente lei si è posto. Da quello che lei ha detto, che per me risulta inedito, e da quello che invece conosco, che riguarda certe discrepanze e certi anacronismi di conoscenza rispetto ai tempi, io sono fermamente convinto che gli extraterrestri siano arrivati. Non è spiegabile, non sono spiegabili determinati fenomeni, l'astronomia e la matematica. Dal mio punto di vista hanno avuto un input fenomenale, decisivo, ma da qualche un altro, non certo dai contemporanei. Guardi, ci sono milioni di persone che credono che quello che lei dice sia la verità. Io mi sono arreso di fronte al fatto che, non essendoci risposte logiche, tutte le risposte sono sullo stesso livello. Qua adesso vedete, questo qui è velocemente, vi faccio vedere l'ananas, questo è il mosaico che c'è Palazzo delle Terme a Roma. Qui sono, invece questo qua è un dipinto su Pompei, anche qua c'è un ananas. Poi l'ultima cosa che mi sono dimenticato di dire, che i Templari fossero stati in America e non è dimostrato, perché questa non è una prova, però queste sono pannocchie di mais che sono state scolpite nella cappella di Rosslyn in Scozia, a 100 km circa da Edimburgo. Peccato che questa cappella hanno finito di scoprirla nel 1470, cioè 22 anni prima che venisse scoperta l'America. Quindi, dando quello che lei dice, c'è tutta una serie di studiosi che danno queste. Io a tale proposito vorrei farvi vedere quello che veramente potrebbe dare quest'idea, ed è sono queste qua, che sono tutto sommato senza spiegazione. Io vi ho parlato prima di Göbekli Tepe in Turchia. Questi scavi hanno, questi sono le pietre, parliamo di granito. Questa roba qua ha 11.000 anni. I dettagli sono stilizzati, ufficialmente siamo nell'età della pietra, d'accordo che queste sono pietre, però voglio dire, non erano dei cacciatori e raccoglitori questi qua, e sono immense, soltanto hanno scavato solo il 5%. Quindi la sua domanda, ecco qua si vede una fotografia, queste qua pesano 30-40 tonnellate. Non so dei raccoglitori, cacciatori, che interesse avessero. Questa qui è Gerico, che è anche antichissima. Finisco su questa qua, è la famosa Stonehenge, che avete visto tutte, anche questa non ha spiegazioni, comunque non erano druidi. Questa è un'altra, quello lì è Newgrange in Irlanda. Queste sono invece i templi maltesi, sono delle sbelle da 80-90 kg, tonnellate. Parliamo di 5.000 anni fa. questo qua è il Pakistan, ecco, queste sono quelle più inquietanti. Queste qui sono dei massi di diorite, siamo a 4.000 metri di altezza. Non ci sono alberi, quindi non potevano rotolarli. Alcuni pesano 70-80 tonnellate, sono tutti disseminati come se fossero stati distrutti da... E guardate che lavorazioni, cioè sembrano fatte ieri con macchinari. Io ho messo, anche qui litigano, c'è gente che dice che ha 14.000 anni, certi che è 1000 avanti Cristo, non si sa, perché lavorare la pietra è difficile. Comunque sono, ecco, questa qua è granito lavorato, cioè, vedete che, allora chi è stato? Alla fine tutte le domande sono lecite, questo che inquieta. E quindi queste leggende che parlano, ci sono delle trasmissioni interessantissime che parlano, poi tirate per i capelli, io non arrivo a conclusioni. Io sono convinto che esistesse la famosa Atlantide, come la vogliamo dipingere, com'è? Sicuramente c'erano delle civiltà raffinate, molto più raffinate di quanto non abbiamo memoria. Chi siano, non lo so, per ora. Io spero che trovino qualche prova, qualche cosa che possa comprovare oppure darci delle risposte. Adesso risposte certe, siamo sempre nelle cose delle ipotesi. Mi diceva? Sì, scusi, volevo dire una cosa. Io sono venuto qua perché mi piaceva il titolo, Rivista un corpo. Invece ho assistito a una lezione di storia, di archeologia, di supposizioni, di civiltà che sono nate, insomma, tutto molto bello, tutto molto interessante. Ma il titolo è fuorviante, scusi, religioni contro, e c'entra con tutto quello che ha detto lei adesso. Allora, domanda, complemento oggetto. Complemento oggetto. Contro cosa? Cioè, contro. Contro cosa? Lei si ricorda? Ma si dice a prescindere da cosa? Allora, cioè, si può dire contro. Lei immagino si ricorda un libro scritto da un certo Lusso, 7 mesi sull'altopiano. C'era un film di Rosi che si chiamava Uomini contro. A chi manca? Vabbè, però tutto quello che lei ha detto non ha parlato in realtà. Sì, io no, la mia premessa è stata, io vorrei rimanere sul generico. Se lei va nei dettagli possiamo andare a parlare dei rotoli Qumran, delle religioni e quant'altro. Dato che per una questione di sensibilità, e non me ne abbia, io non so come la gente la pensa, quindi io sono stato molto asettico e nella mia presentazione mi sono tenuto su dei concetti generali. Se desidero approfondire il discorso delle religioni lo faccio, dato che per me ebrei, cristiani sono delle religioni, quindi io ho il massimo rispetto. In un posto pubblico io faccio sempre un attimo, e non me ne abbia, fatica a denigrare oppure entrare nel merito. Certo è che se lei lo legge si renderà conto che faccio delle osservazioni sulle religioni, sugli inganni, su quello che ha fatto Costantino, su come è stato costruito tutto quanto. Io in questa sera ho deciso, me ne assumo la colpa, di dare una veste più archeologica, tutto qua. Io me l'ho sorpreso, il libro lo leggerò comunque, ma il titolo secondo me è fuorviante. Comunque va bene. A questo punto l'unica cosa è sperare che il contributo sia diverso da quello che lei ha raccontato. Ma non lo so, me l'auguro. Arrivederci, buona serata. Io volevo chiedere una cosa. Lei ha cominciato a dire che la religione la vita non esiste, diciamo che perché è frammentaria, bisogna fare molte ricerche ed è difficile da fare, è un lavoro difficile. Mi faccio ripetere la domanda volevo dire che una delle cose più belle che trovo io nella Bibbia, il fatto sta che intanto c'è, no? Qualcuno l'aveva scritta, qualche uomo ispirato, ci sono sempre chi scrive, no? Però una delle più belle cose, ci sono tre belle cose, c'è la Genesi, che è forse la più bella cosa che io ho mai letto, tra tutte le varie letterature, è talmente semplice, talmente chiara, insomma, che arriva fino al paradiso terrestre, no? E lì Dio crea l'uomo e vissero felici e contenti. Che bella storia, io la finirei lì in questa. Tutto il resto è storia degli ebrei e storia e con tutte le difficoltà. Poi c'è la questione del decalogo. Il decalogo è una legge universale, il decalogo è qualcosa che non è contro nessun'altra religione. Il decalogo praticamente riunisce tutte le religioni, le mette assieme. E poi c'è Gesù Cristo, il quale durante la sua vita citava sempre la Bibbia: non avete letto cosa c'è scritto, non avete letto cosa dice la legge. Dove lo conosce proprio bene l'Antico Testamento, Gesù Cristo. E quindi abbiamo queste semplici prove che è stata sinceramente composta da persone ispirate di buone insomma. E le ricerche che naturalmente lei fa sono interessantissime, queste cose archeologiche. Questa è archeologia, naturalmente, non è religione, è archeologia, che è legata alla religione, va bene, ma più sempre. Perché poi se si legge la Bibbia, si legge un testo che ha una sequenza logica, un seguito, come dice la romanza, va giù e giù, arriva fino al Nuovo Testamento, e quindi diciamo che è una cosa credibile. Beh, intanto la ringrazio. Sulla storia della Genesi, che sia molto semplice, non è che sono molto d'accordo, perché la Genesi ha parecchie contraddizioni. Intanto parla al plurale, fatti a nostra immagine e somiglianza, a un certo momento non riesce a spiegare, siamo Genesi 6, non riesce a spiegare l'estensore delle Bibbie come era è nata la razza umana, allora dice testualmente anche la Bibbia della CEI che a quel punto là i figli degli dei si sono uniti con le figlie degli uomini perché erano affetti e ne presero in moglie quanti ne vollero. La storia del Decalogo anche lì è un po' da rivedere. I 10 comandamenti come li conosciamo noi nella Bibbia sono stati, quando si legge il Decalogo, sono stati distrutti da Mosè, quando è tornato giù. Le prime tavole della legge sono state le ha spaccate quando poi ha distrutto il vitello d'oro. Quindi anche lì c'è tutto da un po' da rivedere. Il concetto universale dei 10 dei comandamenti comunque viene da Kenaton, anche il libro dei morti egizio parla: tu non ruberai, non ucciderai. Così sono un concetto universale. Poi voglio dire, entrare nel merito in ogni cosa si può. Io dico anche un'altra cosa: i Vangeli non sono cristiani, sono diventati dopo dei testi cristiani. In realtà i Vangeli erano delle parole scritte da ebrei osservanti. Il primo vescovo di Gerusalemme, Bebacher, fratello di Gesù, era andava nel tempio a pregare, era il sabato, erano circoncisi. Quindi quando prima si lamentava che non, tutto il discorso di Paolo e di Costantino, di invenzione fatta a posteriori del cristianesimo, quella è pesante. Io la parlo anche più là. Fino all'VIII secolo, in queste valli, erano ariani, cristiani ariani, quindi la divinità di Cristo non era andata di fatto. Con l'avvento dei Franchi, mandati dal Papa con Carlo Magno, poi Cristo è diventato uomo. È diventato Dio, prima era soltanto un profeta come tanti altri. Quindi anche lì qua l'ispirazione di Dante, tutta la storia del ceto, cioè, sono parecchi argomenti, ma come ripeto, in 40 minuti non posso raccontare tutto il libro e quant'altro. Io ho voluto ottenere questa veste qua per incuriosire, ma comunque anche sulle risposte, sulle perché le religioni contro ci sono tutte. Ma io nel titolo religione di un incontro mi trovo molto bene, direi. Ho ascoltato con molto interesse questa demistificazione del linguaggio religioso, non so bene così, in quanto mi sembrava la tua firma di un discorso al quale mi credo profondamente, che è il discorso di Freud sulla religione, quando lo definisse illusione collettiva, no? E quindi più ci aiuta a smantellare le illusioni, più ci aiuta la gente, secondo me, non solo a aderire al meta storico, ma anche a crescere in una dimensione differente che non sia ingenuità rispetto ai fatti della storia, no? Proprio perché poi dopo Freud è venuto anche Jung e via via, per cui si è andati spostandosi dall'asse dello scambiare la verità della Bibbia come se fosse una verità storica o addirittura in certe epoche anche di carattere scientifico, a scoprirla come quella che ci mette in collegamento con un messaggio che è di altro genere e che recupera tutta la valenza simbolica, semmai nel linguaggio venuto al simbolismo degli archetipi di cui parla soprattutto io, ma non vuole dedicare in questo, voglio dire che credo che sia un servizio che va molto bene questo integrare la ricerca seria, pacata, come mi sembrava essere questa sera, non intenzionata a una polemica preconcetta, no? Con anche però uno stimolo che su altri fronti può venire a recuperare un'altra maniera di leggere la Bibbia, che è quella di leggerla in chiave di fede, semmai. Certo, la ringrazio molto. Beh, io vi ringrazio per l'attenzione, per la pazienza e vi auguro buona serata.